Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. Sarete oggi con me e poi domani torna Sebastiano Barisoni, il titolare della trasmissione. Allora, di cosa parleremo oggi? Ovviamente in primo piano ci sono le parole del governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. La BCE, come ampiamente previsto, ha lasciato i tassi di interesse fermi, ma veniamo da settimane piuttosto complesse dal punto di vista politico. Settimane nelle quali, per esempio, il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha attaccato abbastanza duramente il presidente della Banca Centrale Europea e la politica che la Banca Centrale Europea, la politica monetaria evidentemente, che la Banca Centrale Europea sta perseguendo. Ebbene, oggi Draghi ha risposto, possiamo dire, a muso duro ai tedeschi, dicendo: noi obbediamo alla legge e non obbediamo ai politici. Frasi che poi ha esplicitato ulteriormente, ha detto sulle nostre azioni di politica monetaria, o meglio sul tema dell'indipendenza della Banca Centrale Europea, c'è unanimità all'interno del Consiglio, e ha ricordato anche che la Banca Centrale Europea ha un mandato che vale per tutta l'Eurozona e non solamente per la Germania. Sullo sfondo, che cosa c'è in questo nuovo scontro tra la Germania e la Banca Centrale Europea? Sullo sfondo c'è il fatto che in Germania a settembre del 2017 si vota tra un anno e mezzo circa. Certo, a noi sembrerà una data lontana, ma loro sostanzialmente sono già quasi in campagna elettorale e è quasi paradossale dirlo da noi, però le politiche monetarie della BCE, della Banca Centrale, sono un argomento piuttosto nazional popolare in Germania, a differenza di quello che succede da noi. E quindi ci sono delle motivazioni eminentemente politiche nelle dichiarazioni che abbiamo visto nei giorni scorsi da parte di Schäuble, e oggi appunto c'è la risposta di Draghi, che è piuttosto dura, che ha parlato anche di politica monetaria. Tra un attimo ci arriveremo, sarà comunque il nostro tema di apertura. Ci occuperemo dei mercati che oggi sono a due facce in Europa, quantomeno, con Milano che è in guadagno in questo momento dello 0,23% sul FTSE MIB e dello 0,18% sul FTSE OSHARE, Parigi che perde lo 0,27%, Francoforte in marginale rialzo più 0,07%. Londra che perde mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda l'America, siamo in lieve calo, meno 0,09% per lo Standard & Poor's 500 e il Dow Jones che cede lo 0,13%. Parleremo anche di banche e torneremo a parlare della Popolare di Vicenza. Voi direte, non ne possiamo più. Però il tema è sicuramente importante. Oggi la Consob ha dato il via libera al prospetto di quotazione, che contiene anche questo aumento di capitale ad un tale sconto che chi ha in carico le azioni della Popolare di Vicenza al prezzo più alto, che è intorno ai 63 euro, potrebbe trovarsi la cifra decurtata del 99% circa. Quindi c'è da una parte l'operazione, se vogliamo, più puramente finanziaria, l'ingresso del Fondo Atlante, il primo vero atto di questo fondo che è stato costituito per gestire gli aumenti di capitale e le sofferenze, ossia i crediti difficilmente esigibili delle banche, e dall'altra parte c'è l'aspetto delle persone che ci sono. Sono 119.000 azionisti e molti di loro rischiano di trovarsi decurtati i risparmi. Le cronache dal Veneto raccontavano per esempio di un paesino al confine col Friuli nel quale una donna ha avuto un ictus dopo aver scoperto che ha perso 400.000 euro con questa operazione, che è una cifra molto forte. C'è una certa preoccupazione anche sul territorio. Ieri il sindaco di Vicenza, che è anche presidente della provincia nella nuova conformazione, ha chiesto al ministro Orlando maggiori risorse per la Procura di Vicenza, perché sulla Procura di Vicenza si stanno affollando persone che chiaramente chiedono ristoro rispetto a questa operazione. Quindi, ripeto, c'è in tutto questo una questione finanziaria, una questione interessante a livello di sistema e poi una questione che riguarda i soldi di queste persone. A proposito dei nostri soldi, ci occuperemo anche di previdenza. Questa volta, come dire, toccheremo anche il tema che è stato sul piatto in questi giorni, ossia i possibili interventi sulle pensioni, ma ci occuperemo in particolare della previdenza dei professionisti e in particolare di quella dei commercialisti. C'è la Casa dei Commercialisti. Oggi si è svolto questa mattina il forum in previdenza, che appunto è promosso dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti. Questo è un altro fronte interessante, perché per esempio quello è un sistema previdenziale in equilibrio finanziario, e addirittura c'è stata una risposta ad una domanda in merito alla possibilità anche di un ingresso, no? Della cassa all'interno del famoso Fondo Atlante del quale parlavamo poco fa. Il presidente della cassa ha detto, insomma, non, è molto presto, dobbiamo vedere quali sono le carte, come sono i rendimenti, eccetera eccetera, però rientra nell'ambito di quella che potrebbe essere la nostra missione. Quindi c'è anche una questione di sistema che non riguarda solamente questo. Sentiremo anche la voce, e tra poco ci arriviamo, ci rivolgiamo soprattutto ai romani, ma non solo a loro, perché è una questione di dimensione nazionale, su questa vicenda dell'ATAC. Che cosa è successo? L'ATAC, che è l'azienda dei trasporti di Roma, i lavoratori aderenti a alcune sigle sindacali avevano proclamato uno sciopero di 24 ore. Il prefetto Gabrielli gliel'ha ridotta, ha detto guardate, ne potete fare solamente 4 nella giornata di oggi, giornata nella quale tra l'altro si celebra il Natale di Roma, ossia la fondazione della città. E che cosa è successo? Che quando è finito lo sciopero, a mezzogiorno e mezza, l'ATAC ha comunicato: guardate, c'è un sacco di gente che si è messa in malattia, l'andamento dei mezzi pubblici non sarà regolare. Qualche romano ci dirà che cosa c'è di nuovo rispetto al fatto che i mezzi pubblici non sono regolari. La classica battuta, lo sappiamo benissimo qual è la storia, però sentiremo una sindacalista che ho interpellato oggi in effetto giorno e che cosa ci ha raccontato, come ha reagito a tutto questo. 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Materie prime, iniziamo da qua come sempre. Oro stabile, 1254 dollari l'oncia. Il petrolio in calo in maniera anche abbastanza consistente. Il Brent, quello del Mare del Nord, quotato a Londra con consegna giugno, giù dell'1,62%. Il WTI, sempre con consegna giugno, giù dell'1,62%. Siamo a 43,4 dollari al barile per il WTI e a 45 dollari per il Brent. Il tema dell'acciaio. Le previsioni per il mercato siderurgico europeo per il 2016 restano cupe, con un ulteriore aumento delle importazioni già nel primo trimestre che dà preoccupazione per un altro anno di distorsioni di mercato, con produttori europei che perderanno ulteriori quote. Questa è l'analisi di Eurofer, che è l'associazione dei produttori di acciaio europei. Il problema qual è? Gli squilibri tra domanda e offerta nel mondo, in particolare in Cina, che non sono cambiati in modo strutturale. Tra l'altro, su questo tema la notizia ve la stava già dando Valeria De Rosa nel nostro GR24. Il governo britannico è pronto a coinvestire in Tata Steel con un compratore, acquisendo una quota del 25% nelle acciaierie del Regno Unito messe in vendita dal colosso indiano Tata. L'esecutivo aveva promesso, lo ricordiamo, un aiuto concreto per risolvere la crisi siderurgica del paese. In ballo c'è un pacchetto di sostegno da centinaia di milioni di sterline. Il tema che mette insieme le questioni economiche europee con quelle che riguardano i migranti, ossia la proposta italiana di Eurobond. Il presidente della Commissione europea, Juncker, scrive al premier Renzi, proprio in tema di migranti, con un giudizio favorevole sull'iniziativa italiana per un approccio europeo al problema e promuovendo a pieni voti il Migration Compact presentato la settimana scorsa. Rispetto al finanziamento del progetto di gestione dei migranti, e quindi appunto gli Eurobond, pur senza scendere nei dettagli, non chiude la proposta italiana. Dobbiamo guardare a mezzi innovativi per finanziare la nostra azione esterna nelle migrazioni, dice Juncker. Da dire qua, come piccola nota, che possiamo anche ricollegarci, se volete, al discorso che facevamo prima, a una Germania a ridosso dell'inizio di una campagna elettorale o a ridosso di un anno elettorale. Sarà ben difficile che una proposta di questo genere passi in questo momento. Però è qua. C'è uno Juncker che dice, col suo solito modo, lo dico ma non lo dico, potrebbe piacerci. Vedremo come andrà a finire. Bene, della BCE vi abbiamo detto ampiamente, ci arriveremo tra un attimo, sentiremo anche la voce di Draghi, avremo come sempre il commento di Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Tasso principale fermo allo 0%, il tasso sui depositi presso la BCE a un meno 0,4%, meno 0,40%. Per quanto riguarda il programma di acquisto di titoli, resta fermo a 80 miliardi di euro al mese. Per quanto riguarda i tassi, invece, la BCE dice che continua ad aspettarsi che i tassi restino ai livelli attuali o inferiori, quindi non esclude di tagliare ulteriormente per un periodo lungo e comunque ben oltre l'orizzonte del quantitative easing, appunto l'acquisto di titoli. E se serve, aggiunge Draghi, siamo pronti ad agire con tutti gli strumenti. Aggiunge Draghi che non è mai stata discussa l'ipotesi di helicopter money. Che cosa si intende con questa espressione? La distribuzione della moneta creata dalla BCE direttamente agli operatori economici, bypassando le banche. E poi le frasi di cui si riferiva poco fa, quelle in risposta agli attacchi che sono arrivati dai tedeschi. Abbiamo mandato un mandato per l'Eurozona, non per la Germania. Obbediamo alle leggi e non ai politici. Ci arriviamo tra un attimo. Draghi parla anche del Fondo Atlante e dice un piccolo passo nella giusta direzione. Ancora la Popolare di Vicenza per venire all'Italia, qualcosa vi dicevo, la Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo della Popolare di Vicenza. L'offerta avrà inizio alle ore 9 del 21 aprile, quindi oggi, e terminerà alle 13 del 28 aprile del 2016. Nel frattempo la Consob ha anche avviato 6 procedimenti sanzionatori nei confronti di esponenti della ex Banca Popolare. Metà del CDA, ricorda, metà del CDA dei consiglieri di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza attualmente in carica sono tra i destinatari dei rilievi formulati dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo. E qua parliamo invece della BCE. La BCE ha evidenziato nella valutazione, gli organi di controllo nella valutazione della Popolare Vicenza hanno evidenziato anche come l'attività svolta dal collegio sindacale sia stata scarsa e che questo organo non abbia avuto un ruolo proattivo. Ancora le richieste giudiziali, le richieste economiche giudiziali sono per quasi 650 milioni di euro. Questi sono quello che indica la Popolare di Vicenza nel prospetto informativo come i rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso, 4.700 reclami presentati dalla clientela e complessivamente i soci chiedono 1 miliardo di euro. Per quanto riguarda le pensioni, invece, con l'aumento dell'età, e sono dati di oggi dell'INPS, l'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, c'è stato un crollo delle nuove pensioni. Era quasi automatico, visto che appunto sono cambiate le cose. Un primo trimestre con un meno 34% degli assegni sociali, un meno 34% con gli assegni sociali in calo del 42,4%. Alle modifiche del sistema previdenziale di cui si discute in questi giorni sono dedicati 100 secondi di Radio 24 e Sole 24 Ore, che vanno in onda, ve lo ricordo, anche su Radio Dimensione Suono, curati oggi e firmati dal vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Il tema delle pensioni continua in questi giorni a tenere banco. C'è l'attesa, l'interesse per le possibili modifiche alla legge Fornero, o meglio per i possibili interventi destinati a introdurre forme di flessibilità per favorire l'uscita dei lavoratori più vicini all'età della pensione e contestualmente creare anche più opportunità per il ricambio generazionale, per l'ingresso dei più giovani nel mercato del lavoro. Inoltre, oggi sono arrivati dall'INPS alcuni dati statistici che segnalano la frenata delle nuove pensioni liquidate nel primo trimestre del 2016. Sul primo aspetto, cioè sulla flessibilità, sappiamo che ci sono molte ipotesi in discussione. Oggi sul Sole 24 Ore abbiamo detto della possibilità di rafforzare la previdenza integrativa, ma sappiamo che il costo di molti di questi interventi rischia di essere significativo. Sull'altro aspetto, come accennato, i dati di oggi dell'INPS segnalano la diminuzione di un terzo delle nuove pensioni liquidate nei primi tre mesi del 2016, un andamento che risente delle due novità scattate a gennaio in applicazione della legge Fornero, vale a dire l'aumento per tutti di 4 mesi dei requisiti per il pensionamento come effetto dell'aumento dell'aspettativa di vita e i nuovi limiti di età per le donne del settore privato e per le lavoratrici autonome. È una conferma che dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici la riforma Fornero, criticata e contestata, sta però funzionando, e anche che i meccanismi di flessibilità allo studio, che sono certamente necessari, non possono però compromettere la stabilità del sistema previdenziale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Dunque, ci state scrivendo, arriveremo alla Popolare di Vicenza, ci arriviamo subito dopo le 18 e vi faremo anche sentire Draghi che risponde a Schäuble, non vi preoccupate. Ma intanto parliamo un attimo di una vicenda italiana, va, più strettamente italiana nel senso classico e, se vogliamo, un po' più deteriore del termine. Questo pomeriggio, come si diceva, c'è stato un po' di rischio per la ripresa dell'andamento degli autobus a Roma dopo lo sciopero che è durato fino alle 12:30. Perché? Perché dopo lo sciopero, che era stato già ridotto dal prefetto, in molti si sono messi in malattia. La stessa ATAC ha detto: siamo un po' a rischio. E ha detto: abbiamo mandato visite fiscali a tappeto. Ottimo. Ne ha parlato anche il ministro Madia, ha detto: se saranno confermate anomalie nelle presenze è un fatto grave, e con la riforma della pubblica amministrazione ci sarà una stretta sulle assenze di massa. Oggi, in effetto giorno, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Michela Quintavalle, che guida il sindacato di Autoferrotranvieri Cambiamenti M410. Sentiamo le sue risposte. A me sembra che si voglia sempre coprire la facoltà dell'autoferrotranviere di diritto allo sciopero, nel senso che se ci sono sono malattie, questo io sto parlando delle malattie, dell'aumento anomalo delle malattie nel giorno del Natale di Roma. nel giorno del Natale di Roma. Allora andiamocela a prendere con i medici, studio anche medicina, un medico non è che va a mettere la propria firma se la persona non è malata, andiamocela a prendere con i medici che non visitano o che non controllano eventualmente le persone. Dal momento che un medico mette la propria firma dicendo c'è questa patologia e questa persona deve stare 2 o 3 giorni a casa, è insindacabile. Sì, allora guardi, dei medici compiacenti ci siamo occupati spesso e di frequente in passato, e allora questo è un problema, questo è un problema, però dal punto di vista, io sto parlando con una sindacalista del trasporto pubblico, non le dico solo che non mi risulta che ci siano state tutte queste schede di malattia aperte, mi perdoni ma non mi risulta, mi sembra assolutamente l'azienda lo saprà però. Sì, ma l'azienda può sapere quello che vuole, anzi, siccome adesso siamo anche alla fine del mese con l'accordo vergognoso del 17 luglio e gli autoferrotranvieri comunque sanno bene che perdono dei soldi se sono in malattia, stanno attentissimi, data la crisi che c'è, a non venire a lavorare non solo quando stanno bene, ma anche quando stanno con 39 di febbre. Quindi l'azienda può dire quello che vuole, purtroppo quando lo sciopero è indetto da sigle più piccole, anche l'azienda che invece è abbastanza collusa con le sigle più grandi tende a dire cose non vere. Comunque poi documentazioni alla mano se ne potrà riparlare, ma a me non risulta. Quindi se a lei non risulta, immaginiamo che oggi, finito lo sciopero, che se non sbaglio finisce alle 16.30. No, alle 12.30. Alle 12.30, quindi immaginiamo che da questo momento sarà regolare il... Come sempre, nel senso che il cittadino ha diritto di scioperare fino alle 12.30, solitamente noi torniamo in deposito intorno a mezzogiorno e 10, prendiamo le vetture e raggiungiamo Capolinea. Bene, se siete romani e se siete in grado di distinguere da una situazione tra una situazione di sciopero e una situazione di normale condizione del trasporto pubblico a Roma, scriveteci, raccontateci un po' che è successo questo pomeriggio e come vi siete trovati. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa come sempre per il meteo e nella seconda parte della trasmissione andiamo subito a parlare della Banca Centrale Europea e di Draghi. Focus Economia. E a proposito di Roma, un ascoltatore ci scrive: traffico regolare, scorrevole da centro a periferia, e comunque hanno ragione i lavoratori ATAC. Allora, Giovanni, io non so, qua non siamo entrati nel merito, Giovanni è il nome dell'ascoltatore, ci scrive al 349-238-6666, qua non siamo entrati nel merito delle rivendicazioni degli autisti ATAC, che possono essere anche corrette, io questo sinceramente non lo so. Ma come fa a dire che hanno ragione se si danno malati? Abbia pazienza. Cioè, è quello che dico, non è un modo corretto per esprimere le proprie ragioni, quello di darsi malati nel giorno del Natale di Roma, quando ti hanno ridotto lo sciopero da 24 ore a 4, perché insomma comunque un po' di sospetto, quantomeno un po' di sospetto sorge. Veniamo a Draghi, va? Veniamo a scenari più ampi, quelli appunto della Banca Centrale Europea, sotto attacco abbastanza pesante da parte dello stesso governo tedesco nelle scorse ore, del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble. E oggi Draghi, devo dire la verità, ha risposto abbastanza duramente, visto il tono della polemica dei giorni scorsi. E lo ha fatto dicendo: obbediamo alle leggi, non ai politici. Sentiamo le sue parole. We have a mandate to pursue price stability. Il nostro mandato è di perseguire la stabilità dei prezzi per tutta la zona euro, non solo per la Germania. Questo mandato è stabilito dal trattato, dalla legge europea. Noi obbediamo alla legge, non ai politici, perché siamo indipendenti, così come stabilisce la legge. Questa mattina abbiamo discusso brevemente su questa situazione e posso dirvi che il Consiglio direttivo è stato unanime nel difendere l'indipendenza della Banca Centrale Europea e l'adeguatezza dell'attuale politica monetaria. Le nostre politiche non sono molto diverse da quelle che sono state messe in atto in moltissime parti del mondo. Le nostre politiche funzionano, ma date il loro tempo per dimostrare la loro piena efficacia. Certo, se venissero messe in atto anche riforme strutturali, gli effetti delle nostre politiche sarebbero più rapidi. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti. Quindi, da una parte rivendicazione di indipendenza, dall'altra un'altra rivendicazione, quella di essere gli unici che hanno fatto qualcosa. Sì, non prendiamo ordine dai politici, lo avete già citato. Nei giorni scorsi, dopo quelle dichiarazioni di Schäuble che addirittura accusava la BCE di aver fatto perdere le elezioni alla maggioranza di governo oppure di averle fatte vincere al partito anti-immigrati AfD, Draghi era stato zitto anche perché aveva incassato l'appoggio del direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, del ministro delle finanze francese Sapin e soprattutto del presidente della Bundesbank Jens Weidmann. A questo punto però non si è potuto esimere dal dire Schäuble ha sbagliato. A un certo punto ha detto una frase, ha ricordato che Schäuble insomma in parte si è rimangiato queste dichiarazioni. Ma Alessandro, ti fermo perché abbiamo un problema di linea, vediamo se riusciamo a recuperarla, come dire, a sentirti meglio, e nel frattempo facciamo sentire ai nostri ascoltatori un altro passaggio dell'intervento di Mario Draghi in conferenza stampa, una conferenza stampa che è seguita a una decisione sui tassi che è una non decisione, del resto era difficile pensare che facesse qualcosa di più dopo le decisioni dell'altra volta, tassi fermi allo 0%, meno 0,40% sui depositi che le banche effettuano presso la Banca Centrale Europea e appunto una rivendicazione che riguarda anche la crescita. Sentiamo Draghi. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Ci aspettiamo che i tassi restino ai livelli attuali o inferiori per un periodo lungo e comunque ben oltre l'orizzonte del programma di quantitative easing. Circa le misure straordinarie di politica monetaria decise lo scorso 10 marzo, abbiamo cominciato ad aumentare gli acquisti mensili, portandoli a 80 miliardi dai precedenti 60 miliardi. Gli acquisti andranno avanti fino a fine marzo 2017 o anche oltre, se necessario. Continueremo a monitorare da vicino l'evoluzione della stabilità dei prezzi e per raggiungere l'obiettivo siamo pronti ad agire usando tutti gli strumenti concessi dal nostro mandato. I rischi per lo scenario economico restano ancora al ribasso. Guardando avanti, l'inflazione potrebbe tornare negativa nei prossimi mesi, per poi risalire nella seconda metà del 2016. Sostenuta dalla nostra politica monetaria e dalla ripresa economica, l'inflazione dovrebbe salire ulteriormente nel 2017 e 2018. La crescita continua a essere moderata ma costante. Le nostre misure hanno sostenuto la crescita e posso dire che, a parte rare eccezioni, la nostra politica monetaria è stata l'unica politica che negli ultimi 4 anni abbia sostenuto la crescita. In the last 4 years to support growth. Così dunque Draghi, qualche ascoltatore scrive, scherzando ma non troppo, veramente Draghi non prende ordini dai politici perché fa politica. In un certo senso non è sbagliata, perché il discorso che ci siamo trovati a lungo negli ultimi mesi e negli ultimi anni in un paradosso nel quale in un'Europa in difficoltà, no, a mettere in atto delle politiche, la BCE si è sostanzialmente sostituita per certi aspetti. C'è però un punto che solleva un ascoltatore, Alessandro Merli, che credo che abbiamo recuperato. Dice, guardate che se Draghi tira troppo la corda con i tedeschi, la vedo male per l'Europa. Secondo te c'è qualche rischio di questo tipo? Diciamo che Draghi, nelle mosse precedenti che ha fatto, ha sempre avuto l'avallo quantomeno del cancelliere Merkel, che è stata invece in questa fase molto silenziosa, anche perché credo che sia in difficoltà sul fronte interno, però è stato un po' maldestro questo tentativo di Schäuble di attribuire alla BCE i problemi elettorali della maggioranza di governo. Come sappiamo, le elezioni regionali del mese scorso, in cui appunto ha avuto successo il partito anti-immigrati AfD, si sono giocate su un solo tema, che è quello dei rifugiati, non certamente sulla BCE. Io credo che la BCE non si spingerà molto più in là di quello che si è spinta fino ad oggi, però è chiaro che continua a richiamare i politici e i governi a fare anche la loro parte. Oggi l'ha detto abbastanza chiaramente, devo dire, in questo, come dicevamo prima, ha avuto l'appoggio del presidente della Bundesbank Weidmann, il quale in una conferenza stampa la settimana scorsa a Washington, la quale ero presente, di fronte al ministro Scholz, ha detto facciamo tanti richiami alle riforme strutturali, ricordiamoci che i primi a non farle è stato il governo tedesco. Allora, tra l'altro c'è un altro ascoltatore un po' cattivo che scrive, certo che Weidmann appoggia Draghi, comincia a preparare il terreno per succedergli, magari parliamo anche di questo, perché Draghi ha risposto ad una domanda in merito all'ipotesi di un governatore tedesco, però lo facciamo dopo il traffico. Focus Economia. Effettivamente, Alessandro Merli, qualcuno ha chiesto a Draghi, dice, ma insomma, se il governatore della Banca Centrale Europea, del presidente della Banca Centrale Europea, non fosse stato un italiano, avrebbe fatto le altre scelte? E lui ha risposto di sì. Ma Draghi ha citato Trichet, che ieri l'altro... Che il suo predecessore alla guida della BCE, Trichet, ieri e l'altro in un'intervista ha detto avrei fatto esattamente quello che ha fatto Mario. Trichet, come sappiamo, è di passaporto francese e non italiano. C'è una connotazione vagamente razzista in questo in questa discussione sull'italianità di Draghi da parte dei media, dell'establishment tedesco. D'altro canto, però, è legittimo pensare ad un presidente della Banca Centrale Europea che sia tedesco, cioè non deve essere per forza un tedesco, ma non è neanche detto che lo si debba escludere a priori. Non dimentichiamo che Draghi è stato nominato quando di fatto la scelta era già caduta sull'allora presidente della Bundesbank Axel Weber, sarebbe stato lui il successore di Trichet. Se non avesse fatto una serie di dichiarazioni così violente contro la politica della BCE, che la stessa signora Merkel poi lo ha convinto, lo ha indotto a. Sì, lo ricordiamo. Si è tagliato le gambe da solo. Si è tagliato le gambe. Se non fosse avvenuto questo episodio, l'avremmo già avuto un presidente della BCE tedesco. Diciamo che poi, entrando nel campo delle ipotesi, bisognerebbe provare a pensare cosa sarebbe successo con la crisi dell'Eurozona se avessimo avuto Axel Weber alla presidenza della BCE. Io sono convinto che a questo punto non avremmo più né l'euro né la BCE, ma questo è un altro discorso. Weidmann sembra una persona più ragionevole. Sì. Ricordiamo peraltro un'altra cosa, il mandato di Draghi scade il 31 di ottobre 2019, quindi diciamo questo dibattito è un po' a futura memoria, se vogliamo. Ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, come sempre puntuale nelle sue analisi. Noi adesso cambiamo argomento e ci occupiamo di pensioni. Ovviamente vi state scatenando, Schäuble e Merkel, il poliziotto cattivo e il poliziotto buono, qualcuno scrive. E qualcun altro ha l'idea che Weidmann appoggi Draghi per succedergli, qualcun altro dice direi il contrario, se Weidmann appoggia Draghi si sega le gambe da solo, dice un altro ascoltatore. Anche questa non è un cattivo ragionamento. Parliamo di pensioni, in realtà parliamo di previdenza più in generale, perché oggi non ritorniamo su tutte le ipotesi di modifica che al momento rimangono ipotesi e delle quali continueremo a discutere all'infinito. Vi ricordo che manca parecchio tempo all'approvazione della legge di stabilità, Se andiamo avanti di indiscrezioni, microdichiarazioni, diventiamo matti. Aspettiamo di avere qualcosa di concreto sul tavolo. Ci occupiamo della previdenza dei professionisti. Si diceva prima in apertura che si è svolto questa mattina a Roma l'annuale Forum in Previdenza, un evento promosso dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il forum di quest'anno ha avuto come tema la previdenza dei professionisti ieri e oggi e domani. Saluto Renzo Guffanti, che è presidente della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti. Dottor Guffanti, buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, ieri tra l'altro voi avete diffuso i dati del 2015 e sono dati positivi, no? Sì, sono dati positivi. L'avanzo destinato a riserva previdenziale e assistenziale è un avanzo che arriva a superare 565 milioni di euro, le riserve complessive hanno superato i 6 miliardi e 400 milioni, siamo diciamo in una situazione in linea con quelli che sono gli andamenti di lungo periodo da bilancio tecnico che ci eravamo prefissati e messi come obiettivo fin da una decina d'anni fa, quando abbiamo affrontato il tema del passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. Ecco, guardi, lavorai proprio su questo punto, perché dato che è un periodo nel quale molto si dibatte di pensioni, molto si dibatte soprattutto del tema del riequilibrio, l'abbiamo visto con le parole di Boeri l'altro giorno, tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni, quelli che, come ha detto Boeri, andranno in pensione a 75 anni, ma soprattutto con che assegni ci andranno, perché al di là dell'età, insomma, no? Perché poi lo scostamento effettivo rispetto a quella che è l'aspettativa, l'età pensionabile rispetto all'aspettativa di vita, lo scostamento effettivo del quale parla Boeri è di 2-3 anni circa, lo abbiamo raccontato, e però il tema è con che assegno, in che modo. Da questo punto di vista voi avete fatto un lavoro di riequilibrio e anche di sacrificio piuttosto forte, mi sembra di aver capito. Sì, è un percorso di sacrificio e di riequilibrio che ha iniziato a prendere le mosse dal 2001-2002, si è concretizzato con una riforma che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2004. Per grossi numeri diciamo che la platea degli iscritti che allora erano a metà del percorso hanno accettato di fatto una riduzione di quella che era la prospettiva di trattamento, che sta tra il 35 e il 40% circa rispetto a quelle che erano le medie. Hanno accettato un taglio, no, sottolineiamolo questo, hanno accettato un taglio del 35-40% della pensione? Certo. Diciamo che se vogliamo trasferirla in soldoni, pensionati a distanza di 15-20 anni che potevano avere di fronte a sé, e nel frattempo questi anni sono passati, per cui adesso ormai vediamo effettivamente il risultato di quello che era l'ipotesi assunta nel 2002 o nel 2003, pensionati che pensavano di arrivare a trattamenti intorno ai 60.000 euro all'anno, stanno maturando trattamenti che mediamente non superano i 40.000 euro all'anno. C'è stato quindi un taglio, diciamo, di un terzo, o se la vediamo al contrario, il pensionando di oggi, che 12-13 anni fa ha votato la riforma, avrebbe ricevuto una pensione il 50% più alta di quello che effettivamente sta percependo. E questo l'hanno accettato sostanzialmente per consentire il riequilibrio della cassa e ovviamente ai giovani, ai nuovi entranti nella professione e quindi nella cassa, di avere delle pensioni decenti. Sì, diciamo innanzitutto una prospettiva a lungo termine di sostenibilità. In realtà il neo iscritto in allora aveva di fronte a sé una prospettiva ancora inferiore, grazie ai risultati e grazie agli avanzi che stiamo accumulando in questi anni, anche per il neo iscritto di oggi, che maturerà tutta la sua carriera col sistema contributivo, la prospettiva finale, entrando nel sistema a 30 anni e andando in pensione a 65 anni, oggi come oggi ci dà come tasso di sostituzione finale una cifra che è equiparabile a quei 40.000 euro di cui parlavo prima. Allora, dottor Guffanti, le chiedo di rimanere con noi. Un'altra domanda da farle sull'ipotesi di ingresso della Cassa nel Fondo Atlante. Ne parliamo subito dopo GR24. Giustamente, la chiusura di borsa, più 0,40% per il FTSE MIB, più 0,33% per il FTSE All Share. Ai mercati ci arriviamo dopo il GR, ci risentiamo appunto subito dopo l'informazione. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10.30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia e bentornati a questa seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, tanto come sms quanto come messaggi su WhatsApp. Abbiamo parlato di previdenza e stiamo continuando a parlarne. Tra un attimo arriveremo ai mercati. Vi dico intanto che le borse chiudono in positivo col FTSE MIB che guadagna lo 0,4%, il FTSE All Share lo 0,33%, alcuni bancari in rialzo, più 3,18% la Popolare Emilia Romagna, un più 3,09% Mediobanca, Monte dei Paschi più 2,6% Popolare di Milano più 2,5%, in fondo al listino Snam e qualche titolo del lusso, Ferragamo meno 2,5%, Yux Net-a-Porter meno 1,6. Ci arriviamo tra un attimo. Stavamo parlando di previdenza e lo stavamo facendo con Renzo Guffanti, che è presidente della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti. Qualche ascoltatore ci dice: ma come, ci mandano in pensione a 75 anni e l'aspettativa di vita è 80. Occhio che l'aspettativa di vita cresce negli anni. Per dire, adesso l'aspettativa di vita è intorno agli 83 più o meno, e solo nel 2000 era 79 anni, quindi presumibilmente chi andrà in pensione tra 40 anni avrà un'aspettativa di vita più alta, quindi non è che va in pensione e poi dopo 5 anni muore. A prescindere da questo, volevamo soffermarci poi sul ruolo che stanno svolgendo anche le casse di previdenza e anche le casse di previdenza dei liberi professionisti, che stanno svolgendo sempre più un ruolo che è quello dei cosiddetti investitori istituzionali, cioè investono anche nell'economia reale del paese, hanno comprato titoli di Stato. Adesso c'è questo fondo Atlante al quale stanno aderendo le banche, ma non solo quelle, anche la Cassa Depositi e Prestiti. E quindi, dottor Guffanti, c'è una domanda su questo. Mi sembra di aver capito che un po' la state valutando la cosa, anche se bisogna vedere poi le carte, insomma, no? Certamente. Diciamo che è un fascicolo da cui non ci possiamo esimere dall'analisi. I tempi sono maturati in ritmi molto molto veloci, dall'annuncio al lancio, praticamente il fatto è stato istantaneo. Noi abbiamo come buona regola per tutta la filiera dei nostri investimenti dei passaggi obbligati e dei tempi incomprimibili nell'esame e nella valutazione da parte di advisor esterni, da parte della struttura, da parte della nostra commissione investimenti. È un tema che ci vede sicuramente attenti, sicuramente partecipi. Nel momento in cui la valutazione anche di merito rispetto tendenzialmente a due profili che sono quelli che sono incomprimibili in ambito previdenziale, ovvero un profilo di rischiosità e un profilo di rendimento, tra i due profili ovviamente deve creare una situazione di equilibrio tale per cui l'ideale è avere un rendimento magari non eccelso, ma con un grado di rischiosità il più basso possibile. Se rispetto ai nostri dati, diciamo, di riferimento e le nostre medie abituali, questo tipo di impiego passerà la selezione e il vaglio, non abbiamo motivi, diciamo, ostativi pregiudiziali. Si tratta di prendere in mano il dossier e verificarlo con un attimo di cura e, ripeto, coniugandolo con una presenza a sostegno dell'economia reale, delle imprese che sono anche fuori dal circuito della quotazione, sia tramite fondi di private equity, sia con lo strumento del mini bond che faticosamente si sta facendo strada all'interno del mercato e all'interno di quelle che sono le risorse che si possono mettere a disposizione di società che stanno dai 20-30 milioni di fatturato fino al centinaio di milioni di fatturato. Ovviamente non stiamo parlando in questo caso di Atlante, ma del nostro impegno più generale sul fronte del sostegno dell'economia del paese. Nel momento in cui queste condizioni sono verificate, nulla osta dal punto di vista appunto della pregiudiziale a considerare anche un impegno a livello di casse dottori commercialisti, di tutte le casse ADEP nel fondo Atlante. Dunque vedremo che cosa succederà quando avrete in mano il dossier. Intanto la ringrazio, grazie a Renzo Guffanti, presidente della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, e le auguro una buona serata e un buon lavoro. Grazie a voi e grazie anche a tutti gli ascoltatori. Buona serata a voi. Passiamo adesso ai mercati. Giornata positiva, come si diceva, più 0,4% per il FTSE MIB, più 0,33% per il FTSE All Share. Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Inizia a darci un quadro generale, poi andremo sul traffico e poi andremo sui singoli titoli. Allora, un quadro generale, seduta di consolidamento dei guadagni per i listini del vecchio continente in una giornata in cui dalla BCE non sono arrivati sostanziali sorprese e il FTSE MIB comunque, cioè Milano è il miglior listino del vecchio continente, con un colpo di rene nel finale fa più 0,4%, così ai massimi da metà marzo. Questo per quanto riguarda il quadro generale, adesso sentiamo che cosa succede sulle strade e poi andiamo su quadri che magari riguardano singoli settori e non necessariamente singoli titoli. Via! OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Dunque, i mercati. Vedo Ceo Condina, molti bancari in luce, Popolare Emilia Romagna più 3,18, Mediobanca più 3,09, Monte dei Paschi più 2,67, Popolare di Milano più 2,5, Unicredit più 2,2, Intesa San Paolo che guadagna l'1,06%, in mezzo a tutto questo in realtà poi ci sono anche singole storie, no? Sì, assolutamente, la migliore è la B per la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Oggi il Sole 24 Ore dava conto dell'interesse di alcuni fondi specializzati americani per le sofferenze di B, perché sono quasi 1 miliardo di euro, e quindi il titolo è balzato subito in avanti. In generale tutto comunque il settore bancario beneficia dei passi in avanti sul fondo Atlante e anche dell'ok della Consob alla sofferta IPO della Popolare di Vicenza, e così diciamo è proprio il motore bancario a spingere Milano a più 0,4%. Tra i titoli in negativo invece abbiamo Snam che c'è del 4,03%. Sì, Snam diciamo ripiega dai massimi storici, praticamente i massimi storici sono 5,5 euro, oggi aveva aperto a 5,45 euro, secondo il mercato, secondo in particolare oggi due case d'affari come UBS e Citi, il titolo è ormai molto caro, incorpora già gli effetti del potenziale scorporo di Italgas che si occupa della distribuzione di gas, e dunque è un pochino poco conveniente rispetto ai competitor, di qui qualcuno ha deciso di vendere, magari concentrarsi su altri titoli. Tra i ribassi segnalerei anche Salvatore Ferragamo che perde il 2,6%, qui ci sono due elementi, uno è ormai risaputo da giorni sono i timori, insomma, degli operatori di mercato per il primo trimestre delle case di moda, che potrebbe essere ancora una volta negativo. L'altro elemento che è emerso da pochi minuti è quello che riguarda il fatto che il CEO Michele Norsa di Ferragamo si avvia con questo esercizio a chiudere la sua esperienza nella società. È negativa anche Jux Net-a-Porter, che cede l'1,63%, giù anche Poste Italiane l'1,5%, Saipem l'1,4%, A2A l'1,38%, Atlantia l'1,32%, Campari l'1,09%, giù Ferrari dello 0,94%, Finmeccanica dello 0,82%, Enel dello 0,76%. Tra i titoli in positivo c'è anche Telecom Italia più 1,8%, Fiat Chrysler più 1,8%, Luxottica più 1,8%, Moncler più 1,4%, Eni più 1,3%, Intesa San Paolo più 1,06%, Bibanca più 0,81%. Ci chiedete anche gli altri indici: Parigi meno 0,20%, Francoforte più 0,14%, Londra meno 0,45% e l'America vede lo Standard & Poor's 500 scendere dello 0,26% e il Dow Jones dello 0,28%. Grazie, ciao Condine, grazie come sempre ai colleghi di Radio Coro Sole 24 Ore. Buona serata e buon lavoro, ciao. Passiamo adesso a parlare della Banca Popolare di Vicenza, e ne stiamo parlando spesso in questi giorni, inevitabilmente, se volete. Solo una piccola nota ai molti ascoltatori che scrivono: lavoraci tu fino a 75 anni. Guardate, non ho detto che è bello lavorare fino a 75 anni, figuratevi, io ho iniziato a 19, ne ho 40, l'idea di lavorare fino a 75 e non sto nemmeno in catena di montaggio, un po' di disagio me lo dà. Però dobbiamo tenere da conto, no, quello che succede dal punto di vista demografico. È vero che è calata lievemente l'aspettativa di vita quest'anno, come qualche ascoltatore fa notare, però la tendenza è a una crescita. Insomma, pensate solamente a che cos'era un sessantenne 20 anni fa e che cos'è un sessantenne oggi. 20 anni fa un sessantenne lo definivamo anziano, e adesso non lo definiamo più anziano, perché non lo è, molto semplicemente. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera e ciao. Buonasera a voi. Ho l'impressione, appunto, che nei prossimi mesi, e come già stiamo facendo in realtà, tra Popolare Vicenza e tutto il resto, sarei parecchio ospite non solo di Focus Economia ma anche delle nostre altre trasmissioni. Oggi è arrivato il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo della Popolare di Vicenza. Il periodo di offerta avrà inizio questa mattina, in realtà, no? Al 9 e terminerà alle 13 del 28 aprile del 2016. Il tema resta quanto ci perdono gli azionisti che c'erano prima, sostanzialmente. Addirittura gente, Marco, che aveva in carico le azioni a 63 euro e che se le trova a 0,1. Sì, diciamo che una delle tante premesse di questa delicata operazione, molto complicata anche dal punto di vista autorizzatorio, continua a esserci uno slittamento dopo l'altro, è una forchetta di prezzo molto ampia, nel senso che la banca si offrirà al mercato con un prezzo che spazia da 0,1 a 3 euro, sapendo che molto probabilmente si starà su 0,1 euro, perché sappiamo che sullo sfondo c'è il fondo Atlante, che è pronto a intervenire su tutto l'inoptato, cioè tutto quello che non troverà un compratore, e questo fondo ha detto che comprerà 0,1, e se il principale compratore di solito avviene che fa il prezzo, quindi diciamo che non c'è da essere molto ottimisti sul prezzo definitivo. Come dicevi, se sarà 0,1 vuol dire che i 120.000 azionisti attuali, un pochino meno, 115.000, varranno alla fine lo 0,6% del totale. Quindi in sostanza quello che fino a ieri valeva circa 6 miliardi, perché parliamo di 6 miliardi nel bilancio del 2014, oggi varrebbe 10 milioni, e questo evidentemente suddiviso per 115.000, che è il numero degli azionisti, si ha l'idea di quale sia la perdita singola, perché ognuno, c'è chi più chi meno, evidentemente ci perderà tantissimo, sia anche dal punto di vista del peso, perché è evidente che tutti i soci, cioè i 10-20.000 che in rappresentanza dei 115.000 fino a pochi mesi fa andavano in assemblea, peseranno lo 0,6%, e questo dà l'idea di quali saranno i nuovi rapporti rapporti di forza nella banca. Sì, tra l'altro, tra le altre notizie di oggi, poi magari ci torniamo su questo punto, abbiamo anche l'avvio da parte della Consob di 6 procedimenti sanzionatori nei confronti degli esponenti della ex Banca Popolare di Vicenza in seguito all'ispezione condotta tra l'aprile 2015 e il febbraio 2016. Già qualcuno scrive un po' tardiva questa Consob. Sì, oggi Consob ha approvato un prospetto di 715 pagine, quindi è un volume dell'enciclopedia in cui c'è di tutto, c'è praticamente la cronaca degli ultimi anni di storia di questa banca, tra cui questi 6 procedimenti. Non sono i soli, nel senso che oltre alle inchieste in corso, oltre a tutti, diciamo, i fascicoli da parte della BCE, che sono, se vogliamo, alla base di questa, di questo bubbone che è scoppiato negli ultimi 15 mesi, c'è anche Consob. Sicuramente la vigilanza non è stato uno degli aspetti più integerrimi, diciamo, della vicenda. Ora si sta anche cercando un po' di correre ai ripari, ponendo delle particolari clausole di attenzione su come verrà collocato questo aumento, ma evidentemente qui si sta chiudendo il recinto quando i buoi sono scappati da tempo. E questo appunto per quanto riguarda la Consob. E poi ci sarà tutto, evidentemente, ma anche un aspetto giudiziario. Noi riferivamo poco fa che ieri il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ha scritto al ministro della giustizia Orlando dicendogli: date più risorse alla procura di Vicenza, perché qua, anche sulla scorta di quello che è successo, del prezzo di questo aumento di capitale, molti azionisti si stanno fiondando in procura a far denunce, a chiedere risarcimenti e via dicendo. Sì, sempre nel prospetto si fa un numero che è quello di 4.000, che sono al momento le cause in corso da parte dei soci, dicendo però che probabilmente il numero è destinato a salire per il motivo che dicevi tu. Non a caso la banca ha stimato in 1,5 miliardi le possibili perdite dei prossimi anni proprio legati al contenzioso legale. Sì, il tema è proprio quello. Io cito un dato. 4 anni fa, quando il titolo era stato portato al suo massimo storico di 62 euro, i soci azionisti erano 60.000. Oggi sono 115.000. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la metà, un socio su due, è entrato acquistando il titolo a 62 euro, cioè al massimo, e quindi ha perso il 99,9% di quei 62 euro. Questo dà l'idea di quanto sia evidentemente grosso il danno e di quanto sia ampia la fetta dei soci che ha subito il massimo del danno possibile. Quindi circa la metà dei soci, sostanzialmente. Circa la metà dei soci, perché guardando l'andamento storico di quanto sono cresciuti i soci della banca negli ultimi anni, si vede che c'è stato questo boom proprio negli ultimi 4 anni, e però un boom pagato a carissimo prezzo, ripeto, proprio perché nel 2010 era stata, diciamo, sfondata la quota dei 60 euro, e quindi tutti quelli che sono entrati, hanno acquistato azioni da quel momento in poi, l'hanno acquistato a valori altissimi. Se io l'avessi comprato 20 anni fa, evidentemente era un prezzo più basso e quindi ci ho perso di meno. Se sono entrato 4 anni fa, ci ho perso tutto quello che potevo perdere. Questo è evidente, questo per quanto riguarda appunto la Banca Popolare di Vicenza. Vedremo come andranno queste cose. Certamente la vicenda tocca anche personalmente, no? Quelli che sono gli azionisti. Raccontavamo poco fa di una storia che arriva da un paese, se non sbaglio la provincia di Treviso, una signora che aveva investito 400.000 euro in azioni, praticamente se l'è visti azzerati e ha avuto un ictus. Io non so quanto le due cose siano direttamente collegate, però la signora evidentemente è andata in tribunale. Sarà un problema anche per i sindaci di quelle zone che dovranno gestire, poi magari ci sarà occasione di parlare nei prossimi mesi. Già segnalava qualche sindaco, dice, avremo dei problemi perché sarà da gestire anche l'assistenza sociale di tutta una serie di persone che sono letteralmente rovinate da questa vicenda. Marco, chiuderei spostandoti in realtà dalla vicenda della Popolare di Vicenza a delle indicazioni che sono arrivate negli ultimi minuti per quanto riguarda le indiscrezioni, per quanto riguarda il risarcimento degli obbligazionisti delle 4 banche salvate. Te lo leggo così com'è. Si parla di indennizi automatici, ma con paletti legati al reddito ed entità dell'investimento, e questo già più o meno lo sapevamo, per chi ha sottoscritto obbligazioni subordinate prima dell'agosto 2013, quando la Commissione europea ha introdotto il principio del burden sharing. Ci spieghi che cos'è il burden sharing, posto che quelli che hanno sottoscritto dopo l'agosto 2013, per loro scatterà l'arbitrato e quindi si andrà a vedere ogni singola storia. Marco. Sì, il burden sharing è l'inizio del bail-in, provo a essere più chiaro. Dal gennaio 2016 sappiamo che eventuali fallimenti bancari sono a carico non solo degli azionisti, ma anche obbligazionisti, depositanti e via discorrendo. Il tutto in funzione di una direttiva, che è la direttiva BRRD, che è del 2014, ma che era stata anticipata da quello che riferivi tu, cioè da una comunicazione della Commissione Europea dell'agosto 2013. Perché è stato fissato quel termine? Perché evidentemente si ritiene che dal 2013, dall'agosto 2013 in poi, in teoria, e dico e sottolineo in teoria perché parliamo di una materia molto complessa, chi andava a sottoscrivere un'obbligazione subordinata aveva modo di sapere che avrebbe potuto concorrere, essere chiamato a concorrere in caso di fallimento. Quindi evidentemente prima di allora nei contratti non era scritto, ma soprattutto non si poteva sapere perché non c'era l'Europa non aveva stabilito quel principio. Quindi evidentemente l'idea del decreto è quella di non, come dire, non mettere a carico di chi ha perso i soldi nessuna perdita, quindi un rimborso integrale. Dall'agosto 2013 si poteva sapere, anche se nei contratti probabilmente non è stato scritto subito, però lì subentra evidentemente la competenza di ognuno, perché se io sono esperto di quelle materie magari lo so, eppure ci speculo, se non ne so nulla no. Grazie dunque a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti. I ringraziamenti vanno anche a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno e Eleonora Aragona in assistenza in redazione. Un grazie a Andrea Roccabella in regia, a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, la passione si sente.